Halleluja, halleluja, halleluja, al nome del Signore. Halleluja, halleluja, halleluja, al nome del Signore. Canta insieme a me, halleluja. Innalza un canto a Dio dal tuo cuore. Loda insieme a noi perché egli è buono. La sua benignità dura in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia, al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, al nome del Signore. Canta insieme a me, alleluia. Innalza un canto a Dio dal tuo cuore. Loda insieme a noi perché egli è buono. La sua benignità dura in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia, al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, al nome del Signore. Alleluia, alleluia, al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, al nome del Signore.